avrei mai pensato di ritornare al mio passato, rimpiangendo giorni normali che non saranno più uguali. Quando baciare una bambina voleva dire io vi voglio bene, mentre adesso è meglio star lontani per non trasmettere le quattro parole. Nel mio male quattro parole difficili da pronunciare, che a sentirle fanno tremare molto più di un nucleare. Quattro parole senza cuore che ti cambiano la vita, che nel buio di una stanza non ti lasciano speranza, che cancella i sentieri, che ti celano i pensieri, che ti rubano l'amore. Maledette quattro parole. Una pizza con gli amici, una corsa insieme in bici, la partita allo stadio, la tua canzone alla radio, yeah. Quante cose ho perso ormai, quanti affetti mandati via per dimostrarli il mio amore, per non conteggiarli con quattro parole. Il mio male quattro parole che insieme a me nessuno vuole, che mi tengono lontano dalla gente, che mi dicono non servi a niente. Quattro parole, una campana di cristallo che mi isola da tutto ciò che è bello, che mi dico guarda ma non toccare. Di quattro parole si può anche morire. Quattro parole, una sentenza di cui vorresti fare senza. Quattro parole, sempre le stesse, da non pronunciare.